avrete riconosciuto la sigla. La sigla è quella che contraddistingue le trasmissioni politiche del Partito Repubblicano. Questa trasmissione vuole essere una sorta di analisi di quella che è stata fino a questo momento la propaganda elettorale. Mi sembra che il primo dato di fatto incontrovertibile sia quello che quest'anno, ancora più degli anni scorsi, il comizio si è dimostrato un mezzo assolutamente inadeguato per raggiungere l'elettorato. In effetti, anche i comizi che si sono svolti qui a Bondeno, se si vuole escludere quello dell'onorevole Preti il martedì, se non altro perché la piazza era affollata per ragioni probabilmente indipendenti dal comizio, direi che quelli svoltisi sia con la presenza del sindaco, sia del vice sindaco per il Partito Comunista e per il Partito Socialista, non hanno verificato la stessa partecipazione che ci si sarebbe dovuti aspettare rispetto agli anni precedenti. Il comizio lo si sente dire da molto tempo, ma quest'anno se ne è avuta la riprova, è decisamente una forma superata. Ma è una forma superata perché altre, ad esempio appunto queste che stiamo facendo, le trasmissioni radiofoniche, le trasmissioni tramite la TV privata, sono migliori, oppure è una forma superata perché la gente non ne vuole più sapere di politica? È una domanda a cui è difficile rispondere. Forse c'è questa idea del comizio che ha dei toni retorici estremamente esasperati, per cui la gente dovrebbe, o perlomeno così mi auguro, preferire un ragionamento ad un'esposizione invece tendente ad influenzare l'elettorato. C'è anche vero che molti rifiutano la campagna elettorale a priori dicendo ma io so già per chi votare. Ma infatti la campagna elettorale non dovrebbe servire a influenzare o a indirizzare l'elettorato, dovrebbe servire a dargli delle informazioni, perché non è che l'elettore, dopo che ha eletto i suoi rappresentanti, si interessi, o meglio, l'elettore medio, si interessi durante il corso della legislatura di che cosa hanno fatto nel frattempo. È chiaro che poi gli elettori ti raccontano in campagna elettorale, gli elettori, i candidati ti raccontano in campagna elettorale quello che vogliono, a meno che appunto uno non abbia verificato di persona, non vada a verificare di persona cosa è vero e che cosa non è vero. La maggior parte dei partiti dicono di aver fatto quasi tutto, altri, e tra questi il Partito Repubblicano, dicono di non aver fatto niente, ma questo per una ragione semplicissima, perché noi non eravamo in Consiglio Comunale, evidentemente. Siccome da questa tribuna parlo per il Consiglio Comunale, evidentemente non ci si può accusare di nient'altro che di non esserci. D'altra parte, evidentemente, noi questo chiediamo, di esserci almeno con un rappresentante, perché così si potrà anche dire che abbiamo sbagliato. Fino a questo momento sbagli sicuramente non ne abbiamo commesse. Al di là di questo, una notizia che vi voglio dare a proposito del Partito Repubblicano è che al di là dei comizi, a Ferrara, il 30, cioè domani, alle ore 18, dico domani perché questa trasmissione va il giovedì, ma probabilmente sarà anche replicata, a Ferrara, alla Sala Estense, c'è la presentazione delle liste del programma del Partito Repubblicano con la partecipazione del segretario regionale del partito. La Sala Estense, sapete, è quella recentemente rinnovata in piazza. Ecco, parliamo appunto di questa recentemente rinnovata. Non so se vi siete accorti che anche a Bondeno, in periodo elettorale, più che la propaganda diretta, quello che conta è la propaganda indiretta. C'è tutto un fiorire di opere che vanno dal monumento al granatiere, cosa a mio parere è semplicemente orribile. Non parlo dal punto di vista artistico, anche se potrebbe benissimo essere, parlo così dell'idea di riempire ancora di monumenti piazze e giardini, un'idea prettamente ottocentesca, cioè dal monumento al granatiere, dicevo, alle numerosissime manifestazioni che in questo periodo l'amministrazione comunale è particolarmente prodiga a concedere. Non so, c'era la gara di ciclismo qualche tempo fa, più di recente una gara di modellini automobilistici, o ancora, non so, il concerto di musica jazz o di musica classica dopo tanti anni così di sonno della biblioteca comunale, la settimana del fumetto, anche questa organizzata dall'amministrazione comunale proprio a pochi giorni dalle elezioni, iniziative assolutamente meritorie. Però erano 2 anni che io insistevo perché si facesse, e guarda caso la si fa solo alla vigilia delle elezioni. A questo punto ci sarebbe da augurarsi che le elezioni fossero davvero ogni 3 mesi, perché così almeno le amministrazioni si muoverebbero in maniera molto più sollecita e sarebbero più attente ai bisogni dei cittadini. Iniziano anche molti lavori di restauri, finalmente sono chiusi parecchi buchi che tormentavano le nostre strade. C'è un'attenzione ai problemi dei cittadini veramente molto maggiore in questo periodo. È proprio vero che, come diceva Gaber, durante le elezioni tutti sembrano diventare più buoni. Sono considerazioni che magari uno può anche non condividere, oppure possono avere un sapore vagamente qualunquistico. Non è certo mia intenzione. La mia intenzione sarebbe che, al di là di questo che è il naturale desiderio dei partiti o dell'amministrazione di farsi ben ricordare appunto negli ultimi giorni, ci fosse anche un interesse per tutto il resto dell'anno. Ma forse questo accadrà in un futuro. E a proposito di futuro, tutto questo semplicemente per introdurre un pezzo, il prossimo pezzo musicale, tutto questo in un futuro abbastanza lontano, come il titolo della canzone che voglio presentarvi in questo momento. È 1999, una delle prime di Lucio Dalla. Bruciato anche l'ultimo fiore, grigio fumo il colore del sole. Sarò solo in un mondo che tace, finalmente è scoppiata la pace. Aspettavo che venisse il momento, ora parlo solamente col vento. Finalmente questo mondo è più bello, il fratello più non odia il fratello. Niente, niente. Sono salito su di un tram che non parte. Sto seduto come sempre in disparte. Non mi piace tutto quello che dico. Sento nemico. Continuando il discorso della propaganda elettorale, non so se avete notato, ma il Partito Repubblicano è stato abbastanza moderato, e questo per una sua scelta. Abbiamo deciso infatti, a livello provinciale, di contenere al massimo le manifestazioni, sia i comizi, sia la spedizione di materiale elettorale. Non che il materiale non ci sia, esiste, però preferiamo distribuirlo a chi ce ne fa richiesta, o al limite, tramite i candidati stessi, dare sia radiofonicamente sia così personalmente, in fondo con i candidati del Consiglio Comunale si può perché si vedono, tutte le informazioni necessarie. L'unica cosa che faremo sarà distribuire un elenco dei candidati personalmente, la cureranno appunto i candidati stessi, e questo più per informazione che per altro. Non vogliamo fare come adesso un attimo che guardo, come un tal Visentini che si presenta per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ferrara e che ha fatto una pubblicità di cui voglio parlare perché mi sembra molto interessante. Ecco, innanzitutto la foto, è una foto così, a figura intera, lui appare con in mano un libro dove si legge Ferrara, non so, forse sarà l'elenco telefonico, e dice conferma DC-8. Ovviamente DC-8 sta per l'omonimo aereo, evidentemente. Ad ogni buon conto, dice per il Consiglio Comunale, tra parentesi, scheda grigia, è già perché l'elettorato si potrebbe confondere, voto Visentini numero 8, ma fin qui niente di strano, a parte il culto della personalità insito nella fotografia e nella spesa che questo comporta. Poi, in un contenitore della foto stessa, contrassegnato da un vistoso punto interrogativo, si legge: chi è Visentini? E si legge: l'uomo della riesumazione del Palio di Ferrara, l'uomo della battaglia dell'acqua, l'uomo della battaglia dei topi, l'uomo delle pensiline, l'uomo dei servizi igienici, l'uomo degli autobus, l'uomo degli anziani, l'uomo delle strade, l'uomo della droga, l'uomo della fame nel mondo. Deve ritornare in comune, votal e fal votar. Per la Democrazia Cristiana al Comune di Ferrara, Visentini numero 8. Io non sto a perdermi molto in un'analisi semantica di questo genere di volantino. Dire che si ispira al più bieco provincialismo direi che è dire poco. Evidentemente l'elettorato a cui questo signore si rivolge è un elettorato un po' particolare, o forse non è affatto particolare, evidentemente. Ma rimaniamo sempre in ambito di propaganda elettorale. Forse molti di voi avranno letto sui giornali che la Democrazia Cristiana, sempre per parlare male di questo partito, aveva fatto stampare, prima dell'inizio della campagna elettorale, un manifesto. Sul manifesto figurava una scritta. La scritta era: di chi è figlio il terrorismo? Guarda caso, pochi giorni dopo viene incriminato il figlio di Donna Cattin. La DC fa precipitosamente marcia indietro, ritira tutti i manifesti e adesso la scritta è diventata più anodina e dice il terrorismo si può vincere. E beh, effettivamente a questo punto direi che sì, il terrorismo si può vincere. Basta andare a cercare in casa e poi dopo si può benissimo vincere. Va bene. Poi, sempre a livello di polemiche interne, c'era un manifesto, guarda caso, ancora della Democrazia Cristiana che si presta molto a questi giochini, che diceva: il Partito Comunista ha promesso miracoli con le giunte rosse. Sono passati 5 anni, chi li ha visti? Giocando su questo chi li ha visti, che sottintendeva i miracoli, il PC ha pubblicato un contromanifesto, ha cancellato tutto quanto figurava prima, ha lasciato solo chi li ha visti e poi ci ha messo tutto attorno le foto di Caltagirone, di Crociani e dei Rovelli, cioè di tutti quelli che sono stati incriminati per avere stornato denaro pubblico a favore appunto della Democrazia Cristiana principalmente, lasciando questo chi li ha visti nel senso di wanted, cioè ricercati. È interessante vedere che almeno i partiti leggono la propaganda gli uni degli altri. Non so quanto la leggano gli elettori, però io la guarderei. Ci sono ancora molti spunti che, se non altro, sono divertenti. Ma prima di continuare questa nostra chiacchierata, mando un altro brano da un LP che io voglio assolutamente lanciare. Si chiama Riflusso Riflesso. E l'autore è Nanni Svampa. Il brano in questione si chiama Sud America Italia. Siamo tornati tutti quanti nel privato, nel quotidiano ognuno sfoga le nevrosi.

correttezza, quanto ad esempio perché i cartelloni in oggetto sono posti in luoghi assolutamente infelici. Facciamo solo un paio di esempi. Nella piazza antistante Le Poste, piazza Martiri, ci sono tre tabelloni, però a differenza dell'anno scorso, che erano disposti uno contro l'acquedotto dalla parte del ponte, uno all'interno e uno invece posto in fronte alla piazza, stavolta li hanno messi tutti e tre di infilata, per cui in pratica di visibile ce n'è solo uno passandoci proprio davanti. Per vedere quelli interni bisogna che uno si avventuri tra un cartellone e l'altro, provare per credere. Ora io voglio che ci sia dell'interesse, però giuro che non ho ancora visto nessuno là dentro a leggere i cartelloni, anche perché fa molto gabbia, chi soffre di claustrofobia evidentemente non si troverebbe molto a suo agio. Però penso che il colmo sia a Stellata, dove la propaganda diretta per il comune la si dovrebbe affiggere al cartellone dalla parte in cui esso è appoggiato all'argine. Letteralmente appoggiato, se no non sta in piedi. Cioè uno dovrebbe sollevare il cartellone, incollare il manifesto e poi lasciare ricadere il cartellone sull'argine. Dopodiché, non lo so, insomma, quello che lo deve leggere dovrebbe fare la stessa operazione da solo. È molto interessante come tesi, però non mi pare che sia la cosa migliore da farsi. Non diciamo di chi sono le responsabilità di questo genere di cose, perché non vogliamo accusare nessuno, evidentemente. E poi in fondo chi è che li legge, dice i manifesti. Comunque, così, per curiosità, se volete, date un'occhiata ai manifesti perché sono indicativi, rispecchiano gli uffici propaganda dei partiti. Ci si dovrebbe veramente fare uno studio su. Personalmente a me quelli del Partito Repubblicano piacciono parecchio. Direi che hanno un livello decisamente superiore alla media, si rifanno a dei modelli culturali che evidentemente non sono molto comuni. La reazione più normale di chi vi si trova davanti, me compreso, è quella di chiedersi che cosa vogliono dire. In effetti non sono immediatamente interpretabili. Prendete ad esempio quello con la mano che regge la fotografia su cui più o meno sono impregnati tutti. Quest'anno pare che la costante sia quella della mano con la fotografia. E c'è una foto stranissima con una sorta di campo arato e uno slogan. Cosa voglia dire questo discorso è perlomeno ancora oscuro, però sono aperto a tutte le interpretazioni. Anche questo potrebbe essere materia di quiz o di concorso. E poi non lo so, invito magari voi a trovare altri dati significativi, altre cosette carine, oltre a queste. Sentiamoci comunque per adesso una canzone di Dalla che si intitola Quando ero soldato. Allora sì, che era bella la vita anche per me, 15 mesi senza problemi di casa mia. Quando ero un soldato, beato me, mangiavo e bevevo meglio di un re, senza pagare mai una lira di tasca mia. E quelle ragazze, le sole che poi non ti chiedono un matrimonio. Quando ero soldato, che bella età, scoppiavo di vita e di allegria. Poi è finita, sono tornato a casa mia. Complesso di colpa, complesso di colpa, il collo di gradite, il collo di gradite, il collo di gradite, complesso di colpa, complesso di colpa, portatemi via, complesso di colpa, portatemi via. Pensare che allora, quando ero via, soffrivo un poco di nostalgia. vero soldato, beato me. La guerra non c'era, adesso c'è, l'han dichiarata, tutti d'accordo contro di me. Quando ero soldato, vivevo tranquillo, ora sono tanti a bombardare la vita mia. Non è che io ho mandato quando ero soldato alludendo ad un'eventuale militarizzazione dell'Italia, però, visto che prima ho mandato Sud America Italia, evidentemente questo rischio si potrebbe anche correre. L'unica cosa che ci salva è la rivalità tra i vari servizi segreti, la rivalità tra i vari corpi dell'esercito, per cui anche dovendo fare il colpo di Stato, prima di mettersi d'accordo su chi il colpo di Stato lo farà, probabilmente si riuscirebbe a sventarlo. A meno che, appunto, non so, visto che l'altro colpo lo volevano fare i forestali, questo non lo faccia, che so, qualche pattuglia anti-inquinamento di costituenda fattura, evidentemente. Comunque, con questo io avrei anche concluso la puntata di oggi, di, ma chiamiamola tribuna elettorale, chiamiamola così, anche se evidentemente è più che altro un'informazione. E vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Alto Ferrarese, anche perché oltre ai programmi regolari, fino alle elezioni, ci saranno altre trasmissioni elettorali, non solo del Partito Repubblicano, altri esponenti così si avvicenderanno a questi microfoni ed c'è il vantaggio di sentire che cosa ne pensano sui vari problemi gli esponenti locali. Con questo io vi saluto e vi invito evidentemente ad ascoltare e a sentire la propaganda del Partito Repubblicano anche altrove, con tutti i limiti che la propaganda, come ho detto in questa trasmissione, evidentemente ha. Thank you.